Capitolo 12. Signora Allen, disse Catherine la mattina seguente, ci sarebbe qualcosa di male se oggi andassi a trovare la signorina Tilney. Non mi sentirò a mio agio finché non le avrò spiegato tutto. Ma certo, mia cara, vai, solo mettiti un abito bianco, la signorina Tilney veste sempre di bianco. Catherine acconsentì di buon grado e, preparatasi nel modo migliore, si sentiva più impaziente che mai di andare alla Pump Room, dove avrebbe potuto informarsi circa l'indirizzo del generale Tilney. Pensava infatti che alloggiasse in Milsom Street, ma non era sicura di quale fosse la casa e le affermazioni poco convincenti della signora Allen la rendevano solo più incerta. La sua destinazione era dunque Milsom Street. Dopo essersi accertata di quale fosse il numero, si diresse in fretta, impaziente e con il cuore che le batteva a far visita ai Tilney, decisa a spiegare la sua condotta e a farsi perdonare. Con passo leggero attraversò la piazza del Duomo e decisamente rivolse altrove lo sguardo in modo da non dover essere obbligata a vedere la sua amatissima Isabella e la sua cara famiglia, che aveva motivo di credere si trovassero in un negozio vicino. Raggiunse la casa senza incontrare nessun ostacolo, controllò il numero, bussò e chiese della signora Tilney. Il servitore credeva che la signorina Tilney fosse in casa, ma non era sicuro. Sarebbe stata così gentile da dire intanto il suo nome? Lei gli diede il suo biglietto da visita. Dopo parecchi minuti il servitore tornò e con uno sguardo che non confermava affatto le sue parole disse che si era sbagliato, poiché la signorina Tilney era uscita a fare una passeggiata. Catherine, arrossendo per la mortificazione, lasciò la casa. Era quasi certa che in effetti la signorina Tilney si trovasse in casa, ma fosse troppo offesa per riceverla. E mentre ripercorreva Milsom Street, non poté fare a meno di lanciare un'occhiata alle finestre del soggiorno, aspettandosi di vederla. Non apparve nessuno. Arrivata in fondo alla strada, comunque, si guardò di nuovo indietro e allora, non a una finestra, ma in procinto di uscire dalla porta, vide proprio la signorina Tilney. La seguiva un signore in cui sembrò a Catherine di riconoscere il padre ed entrambi si diressero verso gli Edgar Buildings. Catherine, sempre più mortificata, continuò per la sua strada. Avrebbe potuto quasi andare in collera anche lei dopo un atto di scortesia così sprezzante, ma soffocò ogni risentimento ricordando il modo villano in cui si era comportata. Non sapeva come potesse essere classificata un'offesa come la sua, secondo le regole di società, né di quali scortesie potesse ora essere passibile. Avvilita e umiliata, pensò perfino di non andare a teatro con gli altri quella sera, ma bisogna ammettere che non lo pensò molto a lungo. Prima di tutto, si ricordò ben presto che non aveva scuse per rimanere a casa e, in secondo luogo, che veniva rappresentata un'opera che voleva molto vedere. Di conseguenza, andarono tutti a teatro. Nessuno dei Tilney apparve a portarle tormento o gioia. Nacque in lei il timore che tra le doti di una famiglia così perfetta non si potesse annoverare l'amore per il teatro, ma forse il motivo era che erano abituati alle migliori rappresentazioni londinesi, al cui confronto, come aveva saputo dalle autorevoli affermazioni di Isabella, ogni altra cosa del genere era assolutamente orribile. Non si era ingannata aspettandosi una piacevole serata. La commedia annullò con tanta efficacia le sue preoccupazioni che nessuno, osservandola durante i primi quattro atti, avrebbe potuto supporre che avesse una sola preoccupazione al mondo. All'inizio del quinto atto, comunque, vedendo il signor Henry Tilney e suo padre che raggiungevano un gruppo di persone nel palco di fronte al suo, ripiombò in uno stato di ansia e di infelicità. Quello che accadeva sul palcoscenico non era più in grado di suscitare in lei genuina ilarità né di assorbire completamente la sua attenzione. In media uno sguardo su due era diretto al palco di fronte e per la durata di due intere scene osservò in questo modo Harry Tilney senza riuscire a cogliere il suo sguardo, neppure una volta. Non lo si poteva più sospettare di indifferenza verso il teatro. Per la durata di quelle due scene infatti non distolse la sua attenzione dal palcoscenico. Alla fine comunque egli guardò verso di lei e le rivolse un cenno con il capo. Ma in che modo? Né un sorriso, né uno sguardo più prolungato lo accompagnarono. Egli riportò immediatamente lo sguardo nella direzione precedente. Catherine era agitata e disperata, avrebbe quasi voluto correre nel palco dove egli si trovava e obbligarlo ad ascoltare la sua spiegazione. I suoi sentimenti erano più che eroici. Invece di considerarsi ferita nell'onore da una condanna pronunciata così alla leggera, invece di decidere orgogliosamente, consapevole della propria innocenza, di mostrarsi risentita verso chi osava dubitare di lei, di lasciare che fosse lui a tormentarsi cercando una spiegazione ed illuminarlo su quello che era stato solo, evitando il suo sguardo o civettando con qualcun altro, si assumeva tutta la responsabilità di un comportamento scorretto, almeno a giudicare dalle apparenze. Ed era solo ansiosa di avere l'opportunità di spiegarsi. La commedia finì, calò il sipario, Harry Tilney non si trovava più dove era stato fino ad allora, ma il padre era ancora al suo posto. Forse si stava recando al suo palco. Aveva ragione, dopo pochi minuti egli apparve e, fattosi strada tra le file ormai semivuote di poltrone, si rivolse con calma e cortesia alla signora Allen e alla sua amica, ma quest'ultima non gli rispose certo con calma. Oh, signor Tilney, credevo di impazzire per il desiderio di parlarvi e di farvi le mie scuse. Avete dovuto credermi così scortese, ma davvero non è stata colpa mia, non è vero, signora Allen? Non mi avevano forse detto che il signor Tilney e la sorella erano andati fuori insieme in una carrozza aperta? E allora che avrei potuto fare? Ma avrei preferito 10.000 volte essere con voi, non è vero, signora Allen? Mia cara, mi stropicci l'abito, fu la risposta della signora Allen. Le sue assicurazioni, comunque, anche se prive di conferma, non vennero disdegnate. Illuminarono il viso di lui di un sorriso più cordiale, più naturale, e lui replicò in un tono che ancora conservava solo una lieve traccia di voluta freddezza. Vi eravamo comunque obbligati per averci augurato una piacevole passeggiata dopo esserci passata accanto in Ergyle Street. È stato molto gentile da parte vostra girarvi indietro. Oh, ma io non vi ho certo augurato una passeggiata piacevole. Non mi è mai venuta in mente una cosa del genere. Ho supplicato il signor Thorpe di fermarsi, gliel'ho gridato non appena vi ho visto. Signora Allen, non è forse... Oh, ma voi non c'eravate. Ma è davvero andata così? E se solo il signor Thorpe si fosse fermato, sarei saltata giù e vi sarei corsa dietro? Esiste al mondo un solo Harry che possa essere insensibile a una tale dichiarazione? Harry Tilney almeno non lo era. Con un sorriso ancora più dolce, egli disse tutto quello che doveva circa il turbamento e il rimpianto della sorella e la fiducia di lei nella buona fede di Catherine. Oh, non dite che la signora Tilney non era in collera, esclamò Catherine, perché so che lo era. Stamattina non ha voluto ricevermi quando sono andata a trovarla. L'ho vista uscire di casa un attimo dopo che me ne ero andata. Mi è dispiaciuto, ma non mi sono offesa. Forse voi non sapevate che ero venuta. Oh, io non ero in casa in quel momento, ma me ne ha parlato Eleanor ed è allora desidera vedervi per spiegarvi il motivo di una tale scortesia, ma forse posso farlo anch'io. Non si è trattato di altro che di mio padre. Si stavano accingendo allora a uscire, dato che gli aveva fretta e non voleva essere in ritardo, ha preteso assolutamente che mia sorella si facesse negare. E questo è tutto, vi assicuro. A lei è dispiaciuto moltissimo e voleva farvi le sue scuse il più presto possibile. Queste notizie alleggerirono enormemente l'animo di Catherine. Ma c'era ancora qualcosa che la teneva in ansia, e da questo nacque la seguente domanda, di per sé del tutto innocente, ma causa di un certo turbamento per il suo interlocutore. Ma perché voi, signor Tilney, siete stato meno generoso di vostra sorella? Se lei era così sicura delle buone intenzioni e poteva solo supporre che si trattasse di un malinteso, perché proprio voi siete stato così pronto a offendervi? Io offendermi? Sì, sono sicura dal modo in cui mi avete guardata quando siete entrato nel palco che eravate in collera. Io in collera? Oh, non ne avrei avuto nessun diritto. Ebbene, nessuno l'avrebbe detto guardandovi in viso. Egli replicò chiedendole di fargli posto e parlò della commedia. Restò con loro per un po' e fu facile per Catherine sentirsi contenta anche quando egli se ne andò. Prima di lasciarsi, comunque, si accordarono per fare il più presto possibile la passeggiata progettata. E a parte il dolore di fargli lasciare il palco, Catherine rimase nell'insieme una delle creature più felici del mondo. Mentre parlavano, aveva osservato con una certa sorpresa che John Thorpe, che non si trovava mai per più di 10 minuti nello stesso punto del teatro, era impegnato in una conversazione con il generale Tilney. E si sentì più che sorpresa quando si rese conto di essere proprio lei l'oggetto della loro attenzione e dei loro discorsi. Che cosa potevano dire di lei? Temeva di non piacere al generale Tilney, pensava che questo fosse il motivo per cui egli aveva preferito impedire alla figlia di vederla piuttosto che rimandare di pochi minuti la sua passeggiata. Come mai, signor Thorpe, conosce vostro padre? Aveva chiesto ansiosamente, indicando i due al compagno. Harry non ne sapeva niente, ma suo padre, come ogni militare, aveva moltissime conoscenze. Quando lo spettacolo finì, Thorpe venne ad accompagnarli all'uscita. Catherine fu subito oggetto della sua galanteria e mentre nell'atrio aspettavano una carrozza, egli prevenne la domanda che dal cuore stava per affiorarle sulla punta della lingua. Le chiese infatti, con aria di sufficienza, se lo aveva visto parlare con il generale Tilney. Giuro che è proprio un tipo in gamba, forte e attivo, sembra che abbia l'età del figlio. Lo rispetto moltissimo, ve lo assicuro, un vero signore, è il più buon uomo del mondo. Ma come mai lo conoscete? Come lo conosco? Ah, ci sono ben poche persone in questa città che io non conosca. Diamine, l'ho incontrato da Bedford e oggi l'ho riconosciuto nel momento stesso in cui è entrato nella sala da biliardo. Tra l'altro uno dei migliori giocatori che ci siano e abbiamo fatto una partitina, anche se all'inizio quasi mi aveva fatto paura. Il punteggio era 5 a 4 per lui e se non mi fosse riuscito un colpo che è probabilmente tra i migliori che la storia ricordi, ho centrato esattamente la sua palla, ma non posso farvi capire senza un tavolo. Per farla breve, l'ho battuto. Un tipo proprio in gamba, ricco. Mi piacerebbe cenare da lui. So che fa delle cene favolose. Ma di cosa credete che abbiamo parlato? Di voi, sì, santo cielo, e in generale pensa che siate la più bella ragazza di Bath. Oh, che sciocchezze! Come potete dire cose del genere? E che cosa credete che gli abbia detto io? E abbassò la voce. Ben detto, generale, ho risposto io. Sono esattamente della vostra opinione. A questo punto a Catherine, molto meno soddisfatta della sua ammirazione che di quella del generale Tilney, non dispiacque che il signor Allen la chiamasse per andare via. Thorpe comunque la accompagnò fino alla carrozza e finché non vi entrò, continuò a rivolgerle lo stesso tipo di complimenti delicati, nonostante il fatto che lei lo invitasse a lasciarli. Che il generale Tilney, invece di averla in antipatia, la apprezzasse, era davvero meraviglioso e pensò con gioia che ora non c'era più nessuno della famiglia che lei dovesse temere di incontrare. Quella serata le aveva portato di più, molto di più, di quanto avesse osato sperare. Capitolo 13. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sono ormai passati davanti agli occhi della lettrice. Sono stati raccontati dettagliatamente gli eventi di ogni giorno, le speranze e i timori, le mortificazioni e le gioie, e ora non ci rimane che descrivere le pene della domenica e la settimana sarà finita. La gita a Clifton era stata rimandata ma non messa completamente da parte e quel giorno, nel pomeriggio, mentre passeggiavano nel Crescent, venne riproposta. In un conciliabolo privato tra Isabella e James, la prima in particolare aveva una gran voglia di andare e il secondo non era meno ansioso di fare piacere a lei, fu deciso che se il tempo fosse stato bello, la gita ci sarebbe stata la mattina dopo e dovevano partire molto presto così da poter tornare a casa a un'ora conveniente. Sistemata la faccenda e assicuratisi l'approvazione di Thorpe, restava solo da informare Catherine. Lei li aveva lasciati da pochi minuti per andare con la signorina Tilney. In quell'intervallo il programma venne completato e non appena ritornò le fu richiesto il suo assenso. Ma invece di acconsentire con gioia, come Isabella si aspettava, Catherine prese un'aria seria. Era molto spiacente, disse, ma non poteva andare. L'impegno che avrebbe dovuto impedirle di unirsi a loro la prima volta le rendeva ora impossibile accompagnarli. Proprio allora aveva stabilito con la signorina Tilney di fare l'indomani la famosa passeggiata. La cosa era ormai decisa e non aveva nessuna intenzione di tirarsi indietro. Ma che poteva, doveva assolutamente tirarsi indietro, fu l'immediato grido di protesta di entrambi i Thorpe. Dovevano andare a Clifton l'indomani, non sarebbero andati senza di lei. Non ci sarebbe stato niente di male a rimandare di un giorno una semplice passeggiata e non volevano sentir ragioni. Catherine era angustiata, ma non si lasciava convincere. Non insistere, Isabella. Sono impegnata con la signorina Tilney. Non posso venire. Non servì a niente. L'aggredirono con gli stessi argomenti. Poteva andare, doveva andare e non volevano sentire ragioni. Sarebbe stato così facile dire alla signorina Tilney che ti sei appena ricordata di un impegno precedente e devi solo pregarla di rimandare la passeggiata a martedì. No, non sarebbe facile, non potrei farlo, non c'è nessun impegno precedente. Ma Isabella divenne sempre più insistente, cercando di convincerla nel modo più affettuoso, rivolgendosi a lei con i nomignoli più accattivanti. Era sicura che la sua carissima, dolcissima Catherine non avrebbe sul serio rifiutato di acconsentire a una richiesta così insignificante che veniva da parte di un'amica a lei tanto affezionata. Sapeva che la sua amatissima Catherine aveva un cuore tanto sensibile, un temperamento tanto dolce, si lasciava convincere con tanta facilità da chi amava. Ma tutto fu vano. Catherine sapeva di essere dalla parte della ragione e, benché commossa da quelle richieste così affettuose e lusinghiere, era decisa a non lasciarsi influenzare. Isabella provò allora un altro metodo. Le rimproverò di sentire più affetto per la signorina Tilney, benché la conoscesse da tanto poco, che per i suoi migliori e più vecchi amici, in breve di essere diventata fredda e indifferente verso di lei. Non posso fare a meno di essere gelosa, Catherine, quando mi vedo messa da parte per degli estranei, io che ti sono così sinceramente affezionata. Quando ho veramente stretto amicizia con qualcuno, niente ha il potere di cambiare i miei sentimenti, ma credo che i miei sentimenti siano più forti di quelli di chiunque altro. Certamente sono troppo forti per la mia stessa tranquillità d'animo, e vedermi soppiantata nella tua amicizia da degli estranei mi ferisce nel vivo. Questi Tilney sembrano davvero annullare ogni altra cosa. Catherine pensò che questi rimproveri erano sia strani che scortesi. Era giusto che un'amica esibisse così davanti agli altri i suoi sentimenti? Isabella le appariva meschina ed egoista, incurante di tutto quello che non fosse la sua soddisfazione personale. Questi dolorosi pensieri le attraversarono la mente, ma non disse niente. Isabella intanto si era portata agli occhi il fazzoletto e Morland, incapace di sopportare quella vista, non poté trattenersi dal dire: «Via, Catherine, non credo che tu possa ostinarti ancora, non è un gran sacrificio. E accontentare un'amica come Isabella, ah, penserò che sei veramente scortese se ti ostini a rifiutare». Questa era la prima volta che suo fratello si schierava apertamente contro di lei e, ansiosa di evitargli un dispiacere, propose un compromesso. Se soltanto avessero rimandato a martedì la gita, cosa che potevano fare facilmente, dato che dipendeva solo da loro, lei avrebbe potuto accompagnarli e allora sarebbero stati tutti soddisfatti. Ma no, no, no, no, no, fu l'immediata risposta. Non si poteva fare perché Thorpe non sapeva se martedì doveva andare in città. Catherine era spiacente, ma non poteva fare di più, e cadde un breve silenzio, che fu rotto da Isabella, la quale, in tono di freddo risentimento, disse: «Benissimo, questa è la fine della gita. Se Catherine non viene, non posso essere la sola donna. Per niente al mondo farei una cosa così sconveniente». «Catherine, devi venire», disse James. «Ma perché? Perché il signor Thorpe non può portare con sé un'altra delle sue sorelle? Sono certa che accetterebbe volentieri». «Grazie tante», esclamò Thorpe, «ma non sono venuto a Bath per portare a spasso le mie sorelle come un cretino. No, se voi non andate, che possa essere da... Se vado io, andavo solo per il piacere di accompagnare voi. Questo è un complimento che non mi fa affatto piacere». Ma Catherine aveva parlato al vento, poiché Thorpe bruscamente si era girato e se n'era andato. Gli altri tre continuarono a passeggiare insieme, mentre la povera Catherine si sentiva sempre più a disagio. A volte non veniva pronunciata una parola, altre volte era di nuovo assalita da suppliche o rimproveri, e si trovava ancora sotto braccio a Isabella, anche se i loro animi erano in guerra. Per un attimo si sentiva intenerita, il momento dopo era irritata, sempre angustiata, ma sempre irremovibile. «Non ti conoscevo così ostinata, Catherine», disse James. «Una volta non era così difficile convincerti. Eri la più gentile delle mie sorelle, quella con il carattere migliore». «Spero di esserlo ancora», replicò lei sinceramente, «ma non posso proprio venire. Se anche sbaglio, mi sto comportando come credo sia giusto». «Ho il sospetto», disse Isabella a bassa voce, «che non sia un gran dilemma». Catherine sentì un tuffo al cuore, sciolse il braccio da quello di Isabella e Isabella non la trattenne. Passarono lentamente 10 minuti finché non furono di nuovo raggiunti da Thorpe, che unendosi a loro con aria allegra disse: «Bene, ho sistemato la faccenda e domani possiamo andare tutti con la coscienza a posto. Sono andato dalla signorina Tilney e le ho porto le vostre scuse». «Non è possibile!» esclamò Catherine. «Giuro di sì, l'ho lasciata in questo momento. Le ho detto che mi avevate mandato voi per riferirle che vi eravate appena ricordata di un impegno precedente preso con noi per andare a Clifton domani e che quindi non potevate avere il piacere di uscire con lei fino a martedì. Ha detto che andava benissimo, che per lei martedì è la stessa cosa e così tutte le nostre difficoltà sono finite. Ho avuto una bella idea, vero?»